1. Sigla. Fujiko Factory, your musical playground. Buon martedì di Fujiko Factory, io sono Lucri, in mia compagnia oggi c'è Veronica. Ciao a tutti. Ciao a tutte e a tutti, buon pomeriggio e grazie per essere in ascolto sui 103.1. Sarà una lunga puntata, sarà il nostro Fujiko Factory del martedì, come sempre, come ogni giorno, in diretta fino alle 17. Anche oggi avremo una puntata carica. Io da ieri, vero, devi sapere che ho trovato questa nuova base bellissima. Adoro follemente. Che è un po' di jazz che portiamo nel nostro Fujiko Factory. Esatto. Quindi in sottofondo oggi avremo diverse basi, tra cui però questa che mi piace sempre molto. E la nostra puntata di oggi sarà una puntata molto particolare e soprattutto, già lo anticipiamo ancora prima di finirla, che sarà un podcast, lo troverete sul nostro sito www.radiocittafujiko.it venerdì. E oggi vi racconteremo un po', io e Veronica, le icone pop e le maschere. Quindi noi abbiamo studiato questo esame entrambe in anni differenti, ma il professore, esatto, è lo stesso. Tra l'altro entrambe sarà, per me lo è già stato, per te lo sarà a breve, relatore di tesi. Lo salutiamo, se è il nostro ascolto, Lucio Spaziante, che è un professore dell'Università di Bologna e lui insegna analisi della comunicazione visiva. Esatto, e ci ha dato l'ispirazione per fare questa puntata. Io sono molto emozionata, devo dire, perché a me piace un sacco parlare di icone pop. Anche a me. E poi, cioè, noi alla fine abbiamo questo contenitore musicale dove cerchiamo ogni giorno di farvi scoprire cose nuove. Ieri con Carlotta ridevamo di Lucri e Carlotta Pedia, ma anche oggi forse sarà un po' un Lucri vero Pedia, perché è bello usare anche lo spazio per far conoscere cose nuove o magari analizzare cose che benissimo non si conoscono. Noi entrambe abbiamo studiato questo esame, che è appunto tutto sulle icone pop, e c'è questo bellissimo collegamento con le maschere. Io quando penso alle maschere penso ad esempio a Pirandello. È inevitabile. Inevitabile, ed è inevitabile che noi parleremo ovviamente anche di Pirandello. Come ogni volta, ogni giorno, vi ricordiamo il nostro numero SMS, WhatsApp e Telegram 333 180 94 94. Raccontateci come ogni giorno cosa state facendo mentre ci ascoltate, che è una cosa che ci piace sempre sapere, sempre con in sottofondo Glenn Miller, In the Mood, ma soprattutto se volete raccontarci se avete delle vostre icone pop o anche cosa pensate delle maschere, cosa pensate di Pirandello. Ma io direi, vero, se sei d'accordo, di partire subitissimo con il primo brano, che è un brano bellissimo. E qui in redazione ci stavamo chiedendo: ma si legge David Bowie o Bowie? Ecco, io dico Bowie perché il suono B-O-W lo leggo Bao, quindi unito alla I e finali leggo Bowie, però non lo so, tanta gente dice Bowie, quindi fateci sapere. E intanto noi ci ascoltiamo un brano rivoluzionario, un brano bellissimo, e poi vi raccontiamo perché. Però questo è l'alter ego di David Bowie e questa canzone è Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung a snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were God given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, sick as sucked up into his mind. Like a leather messiah, when the kids had killed the man, I had to break up the band. Oh yeah. Sick of playing guitar. E questa era Ziggy Stardust di David Bowie, perché oggi, come dicevamo prima, parliamo di icone pop e maschere, e in effetti in un'icona pop il ruolo dell'immagine è molto importante. Perché parliamo di David Bowie, quindi? Perché prima di altri, con la sua narrazione dell'ascesa e della caduta del proprio alter ego divinistico Ziggy Stardust, aveva tematizzato la questione dell'identità e dello statuto ontologico della pop star. Infatti lui ha sempre sottolineato la dualità tra la sua persona e la sua immagine. In particolare, in un concerto live del 1973 annunciò che il proprio ritiro dalle scene, ma poco dopo rivelò che era solo Ziggy Stardust a ritirarsi, quindi il suo alter ego, non lui. Quindi si divertiva molto a giocare con la sua immagine. E la canzone che abbiamo appena sentito è proprio quella omonima al suo alter ego, il quale nasce nel 1971, quando Bowie realizza che può mettere insieme la musica e la recitazione in un unico personaggio. Quindi questo Ziggy Stardust è un alieno che arriva sulla Terra per salvarla e invece trova il rock and roll. È un personaggio che canta quindi del dolore e del cambiamento e suona meglio di chiunque altro, con una vanità fuori dall'ordinario, e che finisce per andare in rovina travolto dalle sue stesse aspirazioni, senza portare a termine la sua missione. E quindi si può dire che David Bowie ha creato proprio questo alter ego che è durato un paio d'anni o forse di più, però è bellissima questa cosa dove la musica e l'arte, il teatro, quindi creare proprio delle vere e proprie performance sul palco e quindi anche magari mettersi delle maschere per magari essere ancora di più se stessi. E quindi è stato proprio questo personaggio che ha reso famoso David Bowie e ha creato intorno a lui e alla sua figura eccezionale prima un pubblico e poi una vera e propria comunità. Noi appunto vi abbiamo detto che questa puntata sarà interamente sulle icone pop e le maschere, e come abbiamo anticipato fin da subito, quando si parla di maschere non si può non parlare di Luigi Pirandello. Infatti nell'arte è molto vissuto il concetto di maschera proprio a 360 gradi, ma è sicuramente una mistificazione pirandelliana, possiamo definirlo così, perché è un simbolo alienante la maschera, è quell'indice della spersonalizzazione, della frantumazione dell'io in identità molteplici, quindi in personalità diverse, ed è una vera e propria forma di adattamento in relazione al contesto e alla situazione sociale in cui si produce un determinato evento. Io sono follemente innamorata da Luigi Pirandello dal tempo delle medie, ho letto moltissimo di lui e soprattutto avevo fatto anche la tesina in terza media e avevo raccontato e cercato tutta la sua storia, persino ad esempio il suo testamento che aveva scritto, e lo avevo portato all'esame, perché appunto trovo che sia stato un artista straordinario e uno di quelli che secondo me rimarrà immortale. Lo insegnerò ai miei figli, secondo me. Ci sta, direi. E infatti lui era nato nel 1867, morto nel 1936. Lui è stato un narratore, autore teatrale e rivoluzionò il teatro del Novecento, diventando uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi. Nel 1934 fu insignito nel premio Nobel per la letteratura. Tra i suoi romanzi più celebri troviamo il Fu Mattia Pascal e Uno Nessuno e Centomila. Ora, sempre con quella base straordinaria che ho trovato di Glenn Miller in The Mood, vi leggeremo qualche frase che hanno reso celebre Pirandello. Io passerei in realtà 2 ore a leggere estratti dei suoi libri, dei suoi drammi, però diciamo che anche questo porta un pochino nel mondo di Pirandello. Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intenderci, Signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose che sono dentro di me? mentre chi li ascolta inevitabilmente li assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo che gli ha dentro. Crediamo di intenderci, ma non ci intendiamo mai. Sei personaggi in cerca d'autore. Non mi conoscevo affatto, non avevo per me alcuna realtà mia propria. Ero in uno stato come di illusione continua, quasi fluido, malleabile. Mi conoscevano gli altri, ciascuno a suo modo, secondo la realtà che mi avevano data. Cioè vedevano in me ciascuno un moscarda che non ero io, non essendo io propriamente nessuno per me. Tanti moscarda quanti essi erano. E questo era uno nessuno e centomila. Notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Uno, nessuno, centomila. C'è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando stai solo, resti nessuno. Uno, nessuno e centomila. Le anime hanno un loro particolar modo di intendersi, di entrare in intimità, fino a darsi del tu. Mentre le nostre persone sono tuttavia impacciate nel commercio delle parole comuni, nelle schiavitù delle esigenze sociali. Il fu Mattia Pascal. E ora vi trasmettiamo sui 103.1 un altro artista straordinario che secondo me è una delle icone pop più pazzesche di tutti. Io lo ascolto praticamente quotidianamente, anche ieri in macchina mentre tornavo dalla radio. Stiamo parlando di Franco Battiato e di una delle canzoni secondo me più belle della musica italiana. Anche secondo me. La cura. Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni. Attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Questo era Franco Battiato, la canzone si è fermata in un modo un po' brusco, ma è, eccoci qui, 103.1, sempre Lucri e Veronica, sms, whatsapp e telegram 333 180 94 94, perché vi abbiamo trasmesso Battiato in una puntata in cui stiamo parlando di icone pop e maschere. Appunto, secondo me Battiato è uno dei migliori, insomma, in Italia, ma è conosciuto in realtà in tutto il mondo, secondo me, e appunto Battiato è un'icona pop. Ma cosa hanno in comune Luigi Pirandello e Franco Battiato? Uno è uno scrittore agrigentino, come abbiamo detto prima, premio Nobel nel 1934, che ha rivoluzionato la letteratura e il teatro. Dall'altra parte abbiamo Franco Battiato, che è un musicista catanese che tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 ha stravolto i canoni della musica d'autore italiana. Cosa hanno in comune Sicilia a parte? La risposta è nello spettacolo. Nel 2007, e ahimè sono già passati 13 anni, ma è uno spettacolo che ha lasciato secondo me una grande impronta, un bellissimo spettacolo dal titolo L'uomo dal fiore in bocca e altre canzoni, una piccola chicca che è sempre bello ricordare nonostante appunto siano passati tantissimi anni, con la regia di Paolo Scheriani e Nicoletta Mandelli nella compagnia Scheriani Mandelli, e che appunto c'è stato alla Pacta Salone. Infatti, come spiega Scheriani, questa idea da solo sul palco a recitare Pirandello, a cantare Battiato, nasce dalla constatazione di trovarsi di fronte a due casellatori della lingua, e quindi si è deciso di accostare al testo pirallendiano L'uomo dal fiore in bocca, che è stato rappresentato per la prima volta nel 1922 a Milano, alcune canzoni di Battiato, e quindi il risultato è un incontro magico tra questi due artisti, che è una magia che ancora stupisce Scheriani, che, leggo proprio le sue parole, dice: hanno fatto tutto loro, ma mi emoziono per esempio quando le parole della cura si inseriscono a perfezione in un momento nel monologo. Quindi dice che hanno scelto 8 canzoni di Battiato, alcune meno conosciute ma più congeniali al testo, e alcune sono L'animale, Come un cammello in una grondaia e Un'altra vita, e nomino questa canzone appunto perché ora vogliamo trasmetterla, giusto? Assolutamente sì, è una canzone anche questa molto bella, dopo avervi portato nel mondo di Pirandello, facendovelo un po' leggere e magari farvi venire in mente altri pezzi che sicuramente ricordate perché erano famosissimi. Vi abbiamo fatto ascoltare La cura, che secondo me è un grandissimo capolavoro, ma anche questa, che è Un'altra vita. Per dormire mi metto a leggere, e invece avrei bisogno di attimi di silenzio. Volte anche con te sai che ti voglio bene, mi arrabbio inutilmente senza una vera ragione. Sulle strade al mattino il troppo traffico mi sfianca, mi innervosiscono i semafori e gli stop, e la sera ritorno con malesseri speciali. Non servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita. abbandonati a telecomandi in mano, storie di sottofondo, dalla sei ricchi piangono sulle strade, la terza linea del metro che avanza e macchine parcheggiate in tripla fila, e la sera ritorno con la noia e la stanchezza. Non servono più eccitanti o ideologie, ci vuole un'altra vita. Solamente ieri sera io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu sei arrivato, m'hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso sarà perché mi hai guardato. Come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te. Ora io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà. Ma tu l'hai capito, l'hai capito, visto, eri cambiato anche tu. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso sarà perché mi hai guardato. Hai guardato come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te. Mi sei scoppiato dentro il cuore, questa era Mina, una canzone bellissima e una grandissima voce. Siamo sempre sui 103.1 Fujiko Factory del martedì, siete sempre in compagnia di Lucri e Veronica. SMS, WhatsApp e Telegram 333 180 94 94. La nostra puntata, che diventerà anche un podcast, che troverete sul nostro sito www.radiocittafujiko.it da venerdì. Sì, e adesso parliamo di Mina. Sì. Avete appena sentito questa bellissima canzone che si chiama Mi si è scoppiato dentro al cuore. Ma proprio detta con un'enfasi, un pathos, che io ero qua che intanto facevo cose ma non riuscivo a non cantarla. Per forza. L'abbiamo canticchiata e speriamo che la stavate cantando anche voi. Esatto. Ma infatti noi ora torneremo al concetto di maschere e di icone pop, che è la nostra puntata di oggi. Sì, infatti appunto dicevamo prima che in alcuni casi queste maschere possono essere virtuali, come per esempio truccarsi, vestirsi in modo sfarzoso sulla scena, eccetera eccetera, come il caso di Mina appunto. Scusate, ho sbagliato completamente, perché volevo dire come il caso di David Bowie di cui parlavamo prima. Invece Mina si è ritirata dalle scene, quindi non solo si tratta di una maschera virtuale ma una maschera vera e propria, perché adesso viene rappresentata da solamente simulacri, le copertine dei suoi dischi ad esempio. E infatti simulacro è un concetto molto semiotico, e io quando anche studiavo semiotica, sì, le persone mi dicevano: ma esattamente cosa cazzo studi? Perché è proprio così che te lo chiedono, perché tu senti la parola semiotica, simulacri, significato, significante, sono un sacco di paroloni, un sacco di roba difficile ma bellissima, tra cui tutta questa parte che appunto simulacro, nel senso che Mina si è, come dicevi giustamente tu, ha creato una vera e propria maschera, ma nel vero senso della parola, cioè praticamente regista, perché gli album escono, i singoli, sì, escono, ogni tanto fa anche qualche pubblicità senza fare nomi, ma telefoniamoci. e quindi ad esempio anche lì era un, non c'era lei personalmente ma c'era un alter ego di Mina che, esatto, era rappresentata nella pubblicità della Tim, non l'ho detto. e praticamente appunto lei si è ritirata, ma comunque ha fatto parlare la sua musica, la sua voce, e non si è più mostrata in pubblico, comunque rarissime apparizioni. Sì, esatto. Quindi questo è un altro modo di fare musica. Oppure maschere, a me viene in mente ad esempio Liberato. Tuttora oggi credo non si sappia assolutamente che volto abbia, che storia abbia, parla per lui la sua musica. Poi ovviamente è anche, non dico marketing, però può anche essere una scelta di, certo, marketing, perché comunque crea, quando tutto quel periodo in cui si diceva che era Calcutta e si andava, sì, a capire Calcutta dov'era in quel momento, quindi si escludevano le persone che contemporaneamente erano da un'altra parte, oppure hanno studiato la sua voce, cioè hanno studiato tantissime cose, quindi questa cosa crea un eco molto, sì, forte. Esatto. E quindi questo è anche una specie di concetto di maschere. E poi appunto noi vi abbiamo fatto ascoltare Mina per questo motivo, che poi anche l'altra volta ne avevamo parlato in diretta con Riccardo, che se il nostro ascolto lo salutiamo. Ciao, ed Riccardo. Era la tigre di Cremona. Sì, solo che non sapevamo se fosse la pantera, la pantera o la tigre. Alla fine che animale era? La pantera. Tu dicevi la tigre? Sai che non, perché mi ricordo? Perché avevi ragione te, solo che non mi ricordo. Questa è la cosa più importante, ma anche in questo momento non mi ricordo, ma secondo me è la pantegra di tigre. La paese. Sì, ok. La pantegra, oddio. Pantera. Pantera. Ho messo insieme pantera e tigre. Pantegra. La pantera di Cremona. Esatto. Ma andando avanti, quindi non parlando solo di Mina, c'è anche il caso dei Daft Punk, che appunto loro si presentano in scena rigorosamente coperti da maschere atte ad occultare la propria identità reale, preservando in questo modo la possibilità di mantenere il proprio aspetto visivo esente da ogni notorietà pubblica, perché effettivamente ci sono anche tante canzoni che parlano proprio della difficoltà di fare questo mestiere per quanta poi notorietà, sì, prendi, no? Cioè il fatto che non puoi più camminare per strada, ovviamente stiamo parlando di persone tanto tanto conosciute. A me viene spesso in mente ad esempio un Justin Bieber, mm-hmm, che è diventato famosissimo a 16 anni, sì, e già a 16 anni lui non poteva fare un passo che era già calcato di persone di 16 anni urlanti. Penso sia stato un po' traumatico sotto quel punto di vista. Assolutamente sì, e quindi questi sono dei casi per cui evidentemente mettersi una maschera, oppure a me vengono in mente anche i Tre Allegri Ragazzi Morti. Mm. Loro in realtà, cioè che volto ad esempio abbia Davide Toffolo si sa, come il restante della band, tra l'altro che abbiamo intervistato, sì, al Tutto Molto Bello, ed è stato tutto molto bello. E loro però è una cosa scenica, loro si vestono in un modo molto particolare, tra l'altro noi eravamo nel backstage, abbiamo visto proprio la vestizione dei Tre Allegri Ragazzi Morti prima di salire sul palco, ed è una sorta anche di, è come loro si creano la performance sul palco, però poi diciamo che il volto loro si conosce, dei Daft Punk secondo me non si conosce. No. Però mentre noi ci pensiamo, li ascoltiamo, perché questo è il brano dei Daft Punk con Far Williams che si chiama Get Lucky. Like the legend of the Phoenix, all ends with with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky, Daft Punk featuring Pharrell Williams, una canzone del 2013 di questo gruppo che, come dicevamo prima, emerge negli anni 90 producendo musica elettronica. Tu lo sai com'è nato il nome Daft Punk? Non lo so, però devo dire che ho apprezzato tantissimo questa canzone, me la sono un po' ballicchiata, sì. Mi hai visto? Perché noi siamo a distanza, c'è un vetro che ci separa, perché in realtà lo studio radiofonico è perfetto anche in tempi di pandemia, bisogna dire. Siamo già a distanza, ma ci guardiamo e comunichiamo a gesti, principalmente sguardi. E io stavo appunto ballicchiando questa canzone. Sai che in realtà io Pharrell Williams l'ho visto live, perché ero stata una serata bellissima a Milano qualche anno fa degli EMI Awards. E tra i tanti, bellissimo, ho sentito cantare live Happy di Pharrell Williams. No vabbè, ti invidio, sì, troppo. Lo so. Tra l'altro, evento fighissimo, e da quel giorno che ho iniziato ad apprezzare tantissimo Justin Bieber, devo io dire. Infatti, no, io in realtà ci sarei voluta andare per lui. Sì. Quindi vabbè, ti invidio. Presentatori che erano Ruby Rose, fantastica, e oddio, come si chiama? non mi viene il nome, no, non mi ricordo. Vabbè, adesso mi verrà in mente. Ricciolino, Ed Sheeran, che tra l'altro era abbastanza bevuto, e quindi sui social era nata questa meraviglia di meme che diceva sei bevuto pure Artevere. Però comunque serata bellissima, e quando li vedi dal vivo, e quindi poi io ero anche abbastanza sotto palco, quindi avevo Pharrell Williams molto vicino, capisci che sono icone veramente pop, sì, e sono una grandissima figata. Ma sono molto curiosa di sapere da cosa è nato il nome Daft Punk. Te lo dico subito, infatti appunto all'inizio il gruppo si chiamava Darlin e faceva questo genere appunto dominato da chitarre distorte e voci in falsetto. Così ricevette una recensione su Melody Maker e il recensore David Jennings si chiamava, definì un loro brano Daft Punky Trash, tradotto come demenziale spazzatura punkeggiante. Wow, bellissimo, devo dire. E da questa definizione loro, con un senso di autoironia, decisero di trarre il loro nuovo nome Daft Punk. Quindi diciamo questa autoironia ha portato anche a una cosa positiva, un nome che adesso conoscono tutti. Anche perché da quel momento possiamo anche dire che è cambiato proprio il loro aspetto esteriore, quindi sì, si sono probabilmente anche messi più in gioco, e forse anche un po' il ruolo delle maschere, di essere icone pop però con una maschera, quindi aver non aver più paura di mostrarsi. Non so, dietro le maschere ci possono essere tantissimi motivi, però insomma loro secondo me sono un duo fantastico, e se non avete visivamente in mente cosa loro fanno su un palco, vi consiglio su YouTube qualsiasi loro video, e quindi vedete, ma già tantissimi anni fa, come secondo me erano avanti anni luce. Sì, ma poi loro hanno avuto il compito di conferire un carattere visivo ad un genere musicale che prima di quel momento non si guardava, cioè non si ascoltava e basta la musica elettronica, non si assistiva a concerti di musica, sì, elettronica, esatto. Invece grazie a loro, che comunque fanno queste performance con delle scenografie pazzesche, è cambiato anche il modo di vivere la musica elettronica. E quindi è proprio bello come anche la fruibilità della musica è cambiata, soprattutto poi in questo periodo così particolare. Ad esempio sono nati tantissimi concerti in streaming, sì, che anche solo un anno fa, due anni fa, era una cosa impensabile, potendolo fare dal vivo. Quindi poi quando succedono cose ci si reinventa, e ad esempio oggi la musica si sta reinventando tantissimo per forza di cose. E a tal proposito vi ricordo la nostra rubrica inchiesta Please Don't Stop the Music, che sul nostro sito sempre www.radiocittafucico.it potete recuperare tutti i podcast con le interviste. Diamo voce e spazio a chi in questo momento non ce l'ha, e mandiamo questo piccolo estratto. Perché la musica non c'è. E invece la musica c'è, e appunto noi con Please Don't Stop the Music cerchiamo di ricordarvelo, ed è partita un'altra base che mi piace tanto, che è gli Aristogatti, perché tutti quanti vogliono fare il jazz. E a proposito di questo, io passerei al prossimo artista, anch'esso ovviamente una grandissima icona pop, e lui infatti, che è Bob Dylan, è l'esempio di una relazione con l'essere celebrità problematica e conflittuale, come per me oggi le parole sono molto conflittuali, e a tratti addirittura drammatica. Drammatica. E che è diventata oggetto di scelte strategiche. Dylan è stato considerato una guida politica e spirituale dalla generazione dei giovani negli anni 60, e ha sin da subito preso le distanze dal ruolo e dalle varie identità che gli venivano attribuite. Poi vi ricordo che lui è lo stesso che ha vinto il premio Nobel e non è andato a ritirarlo. Ci Vero. Stiamo ancora chiedendo se è andato a ritirarlo. Mentre glielo chiediamo, ci ascoltiamo il brano di Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on heaven's door. in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Abbiamo appena ascoltato Bob Dylan ed è una canzone che a me piace sempre tantissimo e appunto lui non si può non definire un'icona pop. Che ci scrive Cinzia? C'è scritto: care Lucri e Veronica, Mina è la tigre di Cremona. Tigre, vedi, non era la pantera ma era la tigre. La tigre. Perfetto, grazie mille Cinzia, che sei sempre in nostro ascolto e stai sul pezzo, perché appunto noi vi lasciamo anche la linea diretta con il nostro programma per insomma confrontarci in diretta, sempre solo 333 180 94 94. Sì. Però Lucri, io mi sto ancora chiedendo come tu abbia fatto a partecipare agli MTV EMA nel... L'anno non me lo ricordo, era sicuramente 5-6 anni fa. Me lo chiedo, me lo devi spiegare. Non so se te lo spiego, ci penso, vabbè te lo spiegherò. Allora, devo dire che, come ti dicevo, sicuramente abitare vicino a Milano mi ha aiutato. Io quel pomeriggio ero a Milano con alcuni amici e io dovevo incontrarmi con un altro gruppo di amici quando ci si poteva riunire, tutto molto meraviglioso. e niente, questa mia amica ci scrive e ci dice: ragazze, guardate, io sono finita in questo posto, voi venite qua, poi vi spiego perché. Noi arriviamo a questo posto, una coda infinita, praticamente erano dei provini per poter vincere l'ingresso agli MTV EMA, ma era una cosa molto segreta, quindi non è che era stato pubblicizzato. Poi in realtà i tempi social non funzionavano ancora così bene, cioè c'erano ma non come fruibili come oggi, e quindi noi abbiamo fatto questa coda infinita e davanti a una giuria, tra l'altro c'era anche Cosmopolitan, cioè c'erano delle, cioè c'era una giuria molto seria. Io non ho mai ballato in vita mia e mi vergogno anche molto. Ma dovevate ballare? Assolutamente sì, quindi abbiamo dovuto scegliere un brano in coda, poi ci siamo aggiunte con altre persone, abbiamo creato una finta performance, abbiamo fatto sto balletto idiota e in realtà funzionava principalmente che di fatto una volta che eri lì il biglietto te lo davano, però c'era la possibilità di vincere anche il red carpet oppure solo l'ingresso. Io vabbè, ero già stata troppo fortunata, il red carpet non l'ho vinto, però devo ammettere che a un certo punto si è avvicinato il fotografo di Cosmopolitan e mi ha chiesto: posso fotografarti? Io allibita gli ho chiesto perché, lui mi aveva detto che avevo molto stile, e quindi sono finita in realtà anche su Cosmopolitan, quindi è stata una giornata mamma mia ed è stato molto divertente. La settimana dopo ci siamo presentati, era al Mediolanum Forum di Milano, ed è stata una serata veramente, cioè quasi anche difficile da raccontare, perché in realtà si guarda in televisione, però lì vedi proprio, ad esempio a un certo punto mi hanno montato una telecamera gigante con tutto un braccio meccanico davanti, perché si esibiva Ellie Goulding con il piano praticamente davanti a me, e quindi hanno aggiunto un'altra telecamera. Poi in realtà era una serata molto lenta perché c'erano un sacco di pause per cambio palco, che ovviamente in televisione queste cose erano sostituite con dei video, la pubblicità, esatto. Quindi ammetto che in realtà molti momenti morti, poi credo si fossero esibiti tipo in 10, quindi però insomma ho visto 10 artisti tra Pharrell Williams, stavo dicendo Michael Jackson perché leggevo la scaletta, ovviamente non Michael Jackson, però Justin Bieber, Pharrell Williams, Ellie Goulding e tanti altri, quindi è stato sicuramente molto bello. E poi in lontananza io vedevo questa fila di personaggi seduti ed erano loro, bellissimo. E poi vabbè, appunto Ed Sheeran sul palco e una Ruby Rose che stava registrando un film, si era fatta male a una gamba, quindi veniva messa sul palco, tolta dal palco, messa su... Quindi insomma delle scene molto molto divertenti. L'altra cosa ancora più divertente è che tutti i miei ascoltatori ormai sanno che io non so l'inglese, ed era tutto ovviamente in inglese. Giusto, quindi ho avuto qualche difficoltà tecnica nel capire cosa stava succedendo intorno a me, come ad esempio il mio microfono ogni tanto salta, però non capivo esattamente cosa stava succedendo, però era tutto veramente bellissimo, come bellissima la pubblicità sui 103.1, ma ritorniamo tra pochissimo. E siamo tornate sui 103.1, sono le 16.02, oggi siamo puntualissime, vero? E questa è una cosa molto importante, se no il direttore si arrabbia, il direttore. Ma mentre aspettiamo la neve a Bologna, chissà se realmente arriverà, io intanto voglio rimettere la nostra bellissima base molto jazz di Glenn Miller, In the Mood, al 333-180-94-94. Ci viene scritto che in realtà alla fine il premio Bob Dylan è stato recapitato a casa, quindi non ha fatto lo sforzo immane di andare, risolto il mistero, è stato recapitato a casa. Però stiamo parlando di icone pop, stiamo parlando di maschere, come si fa a non parlare di Michael Jackson? Inevitabile, anche perché di maschere, cioè tra il fatto che voleva cambiarsi il colore della pelle, è una persona che aveva una casa che praticamente era un parco giochi, una vita molto movimentata e insomma a tratti anche così diciamo, ma sicuramente un artista straordinario. Io mi ricordo da piccola a casa della nonna che mi guardavo i video musicali di Michael Jackson, oppure spesso intorno a Natale tra l'altro mandavano in onda questi concerti, concerti o anche documentari, però io mi guardavo per ore i suoi concerti e il mio microfono oggi fa le beats, ma non è importante perché tra pochissimo ci ascoltiamo Michael Jackson. Però effettivamente c'è anche un altro motivo per cui abbiamo deciso di trasmetterlo. Sì, perché Thriller, l'album dei record di Michael Jackson, oggi compie 38 anni. Thriller tra l'altro è anche un singolo che è contenuto in questo album, che è stato, diciamo, il videoclip di questo singolo è considerato uno dei primi video musicali ad avere una trama, una coreografia e degli effetti speciali. Diciamo anche che ha avuto un alto budget, diciamo che appena hanno capito l'importanza che potevano avere i video musicali, quindi da lì poi sono nati, perché all'inizio veniva semplicemente pubblicata la canzone. Ora, se notate, prima viene pubblicata la canzone, si lascia un po' di suspense per l'arrivo del videoclip, ma poi funzionano tantissimo le visualizzazioni su YouTube. Esatto. Anche se negli ultimi anni in realtà poi la cosa più importante sono le visualizzazioni, cioè in realtà gli streaming Spotify, iTunes e tutte queste fantastiche piattaforme. Però effettivamente il videoclip ti dà quella cosa in più, perché è uno storytelling dietro alla canzone, quindi poi vengono fatti in modi totalmente diversi. Spesso magari si crea un fumetto, si mette delle immagini live, oppure si crea una storia. Esatto, c'è un testo visivo che spiega il testo verbale, noi che abbiamo fatto semiotica. Esce da qui e esatto. Sostanzialmente questo. Poi un altro grandissimo motivo per trasmettervi, oltre che sono dei brani bellissimi, Michael Jackson, è che l'album Thriller compie, che innanzitutto un album di record, compie 38 anni, quindi ultra mega maggiorenne. E ci sono molte curiosità però su questo disco capolavoro del re del pop. Sono trascorsi appunto 38 anni dal giorno in cui veniva alla luce uno dei più grandi capolavori. Parliamo di Thriller, l'album dei record, destinato a diventare con il tempo una vera e propria pietra miliare. Il disco è stato lanciato negli USA il 30 novembre 1982 e nel resto del mondo il 2 dicembre. Quindi noi siamo a cavallo tra il 30 novembre e il 2 dicembre. Esatto. E appunto vanta una serie di record ancora oggi senza paragoni. Continua infatti ad essere il disco più venduto nella storia della musica, confermato anche dalla Billboard e Guinness dei primati. Le stime relative alle vendite supererebbero infatti 110 milioni di copie. È un numero che non assurdo. So neanche capire effettivamente. E tra l'altro nel 1984 Michael Jackson ottenne, grazie a Thriller, ben 8 Grammy Award. Cioè è assurdo comunque. Sì, anche questa è una cifra notevole. Ed è diventato il primo artista nella storia a ricevere tanti premi nella stessa serata. Tra l'altro tutti i 7 singoli estratti dall'album entrarono nella top 10 della Billboard Hot 100. Oh, ragazzi, io vorrei un attimo precisare che io, che sono negata in inglese, ho superato il maestro. Il maestro ora. Non esageriamo. Beh, in questo duo sicuramente il maestro 100, che è appunto due delle quali in prima posizione, quindi numeri da record per questo album. Ma prima di continuare a raccontarvi un po' di pillole su Michael Jackson pedia, ci ascoltiamo Thriller. Dark. Under the moonlight, Chiude la porta. Io devo dire che in realtà questa risata finale fa un po' paura, ma è un brano di 5 minuti e 13, pazzesco. Sì, mette un po' d'ansietta però questa risata. L'ansietta c'è. Ma appunto, album straordinario che compie 38 anni, arrivano già dei messaggi che si manifestano i fan di Michael Jackson, perché appunto non si può non essere fan di un'icona, è proprio un'icona. Sì. Parliamo di icone pop in questa puntata e non potevamo non parlarvi di lui. Vi abbiamo raccontato di quanti premi ha vinto, ma anche che per la realizzazione di Thriller, il re del pop confessò di essersi ispirato ad uno degli album meno riuscito dei Queen, intitolato Hot Space. Anche Queen effettivamente grandissima insomma, grande gruppo, grandi icone sì. pop. In realtà sarebbe una puntata tipo per i prossimi 12 anni, se vogliamo sì, parlare di tutte le ore pop. Abbiamo fatto una piccola cernita. Sicuramente, appunto, non potevamo non parlare di questo album, il disco che ancora oggi vanta una posizione eccellente nelle più importanti classifiche dei migliori album della storia. Nel tempo si è aggiudicato ben 101 dischi di platino, 17 di diamante e 8 dischi d'oro. Per intenderci, i dischi d'oro si raggiungono con la vendita di 30.000 copie circa, poi negli anni anche questa valutazione è cambiata, però circa. Di diamante credo superino le 100.000 sì. passa copie, e dischi di platino sono penso 50, 60, 70.000. Comunque vuol dire che ha venduto milioni e milioni e milioni di copie, quindi tantissimi premi. E qualche curiosità su questo disco che compie 38 anni: forse non tutti sapete che a suonare il celebre assolo di chitarra di Beat It fu Eddie Van Halen, mentre l'ululato iniziale, che doveva essere inizialmente di un cane, in realtà è stato emesso proprio da Michael Jackson. Assurda. Beh, non cosa. Mi sconvolge. No, e ci sono i soliti problemi con il tuo microfono, Lucri, quindi... Ma va tutto benissimo. Ah. Sono tornata, la mia voce è tornata giusto per dire una cosa molto importante. Sapete che Fujiko Factory è uno spazio principalmente di cazzeggio, di balotta, come piace dire a me, però anche, perché no, un punto di riflessione. Oggi è il 1° dicembre, abbiamo parlato insomma dei regali di Natale, chi ha già iniziato a fare l'albero, discussioni su quando esattamente va fatto l'albero, c'è chi dice che bisogna tassativamente aspettare l'8, ma succedono anche cose importanti. E infatti il 1° dicembre ricorre la giornata mondiale contro l'AIDS, un'altra pandemia oltre insomma al Covid che stiamo ormai vivendo quotidianamente, però non dovremmo mai dimenticarcene. E infatti questa giornata è anche un'occasione, diciamo, di un bilancio sulla situazione attuale. E infatti, analizzando gli ultimi dati disponibili, quelli del 2019, emerge che in media calano i casi di contagio da HIV, anche se le diagnosi restano elevate fra i giovani nella fascia dai 25 ai 29 anni. C'è un altro dato però negativo, perché ben 6 diagnosi su 10 avvengono troppo tardi, in fase già avanzata della malattia, quando si è positivi da molto tempo, e questo ovviamente è un dato preoccupante. Sono alcuni dei numeri resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità insieme al Ministero della Salute in un notiziario divulgato in occasione di questa giornata. E infatti anche in questa giornata viene ricordato il telefono verde gratuito per l'AIDS e le infezioni sessualmente trasmesse, che è 800-861-061, che sarà attivo dalle 10 alle 18. Poi il numero rimane ovviamente funzionante tutto l'anno ed è, lo è da ben 33 anni, quindi un grande servizio importantissimo. E quindi insomma era una cosa secondo me importantissima da ricordare. E poi io amo particolarmente il mondo dei social, questo ormai si sa, ma soprattutto il mondo di Instagram, perché in realtà con un'immagine semplice si possono spiegare tante piccole cose. Quindi in realtà in questi giorni, anche tipo per la giornata contro la violenza sulle donne, per l'eliminazione della violenza e in tante altre situazioni, piccole immagini che possono essere che possono spiegare meglio. Infatti c'è questa immagine che io ho trovato, che volevo leggervi, che infatti si chiama proprio Combatti l'ignoranza World Days, che si dice: come non si prende l'HIV? Con un bacio, con un abbraccio, condividendo cibo o posate, da morsi e punture di insetti, usando lo stesso bagno, da starnuti e tosse, dal sudore da un animale. Questi sono i modi come non si prende. Come invece si può prendere è l'ingresso di sangue infetto nell'organismo, rapporti sessuali non protetti dal preservativo e gravidanza, parto e allattamento se la madre è sieropositiva. Quindi io credo che, come in ogni cosa, il modo migliore per combattere è la conoscenza. Assolutamente. Quindi conoscere è l'arma più potente che noi possiamo avere. E a proposito di questo, passiamo a un'altra grandissima icona pop, che è Elvis Presley con Can't Help Falling in Love. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Questa era Can't Help Falling in Love di Elvis Presley. Perché parliamo di lui? Perché, come dicevamo prima, oggi la nostra puntata è incentrata sulle icone pop, e Elvis è stato un'icona pop in realtà di origini umili, che però manifestò sin da subito una particolare inclinazione per la musica e attorno al 1956 divenne il primo idolo giovanile rock and roll, prima per i teenagers americani e poi per il resto del mondo. Lui mostrava anche grande interesse per la moda, infatti le sue modalità espressive rientravano all'interno di una ricerca di eleganza eccentrica e bizzarra, e c'erano assolutamente due elementi in particolare significativi quando si esibiva su un palco. Lui suonava solitamente su un semplice palco senza grandi scenografie, però questi due elementi significativi erano la gestualità del corpo e lo stile vestimentario, che erano entrambi elementi di rottura rispetto alle convenzioni di quel momento storico. Quindi lui portò anche delle innovazioni all'interno del settore musicale, ecco, non mi veniva il termine. Ma tra l'altro questa canzone, a parte che non so, sarà appunto che è iniziato dicembre, sarà un mese molto particolare, però a me è sembrata anche in questo momento, con sempre la neve che forse in arrivo a Bologna, un po' anche natalizia, non so, sì. Mi ha dato un caldo abbraccio. Soprattutto questa canzone è bellissima, fatta con l'ukulele. Io ho un ukulele ma non lo so suonare, ovviamente. Anche le mie coinquiline hanno un ukulele, loro lo sanno suonare, io no. Benissimo, quindi io ti consiglio di chiedere alle tue coinquiline di suonarla con l'ukulele. Secondo me è difficilissimo. Dirò però, di provare. Ecco, poi se lo fai facci sapere, perché io sono curiosissima, ma sicuramente anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ma insomma, lo propongo anche a voi, prendete il guanto di sfida e fateci sapere. Ma secondo me con l'ukulele esce veramente bellissima. Noi abbiamo parlato, come in ogni puntata, di cose importanti, e giusto l'altra sera ci sono stati i Diversity Media Awards. Ieri abbiamo fatto uscire sul nostro sito, sempre www.radiocittafujiko.it, un bellissimo articolo con il podcast, mentre ne parlavo ieri in diretta per il lunedì di Fujiko Factory, e è un'iniziativa bellissima di inclusione, come la musica riesce a creare inclusione, e quindi è bello dare lo spazio a tutti. Noi con Fujiko Factory, ma in realtà con tutta Radio Città Fujiko, cerchiamo sempre di fare questo. In realtà la nostra puntata di di oggi è giunta al termine, ma vi salutiamo con una piccola chicca che è dolcissima, una piccola canzone indie che secondo me anche questa a loro modo sono icone pop. Lei è Ingrid Michelson e questa canzone è You and I. Siamo noi, You and I. A domani, ciao, ciao. Don't you worry there, my honey. We might not have any money, but we've got our love to pay the bills. Maybe I think you're cute and funny. Maybe I wanna do what bunnies do with you, if you know what I mean. Get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I. Well, you might be a bit confused, and you might be a little bit bruised, but baby, how we spoon like no one else. So I will help you read those books, if you will soothe my worried looks, and we will put the lonesome on the shelf. Let's get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I. Let's get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like